Siamo al telefono con Riccardo, in arte di maggio, perché è uscito l'8 novembre il suo primo EP che si chiama A me non serve niente. Ciao Di Maggio, come stai? Ciao a tutti, sto molto bene, grazie mille per l'ospitalità, è un super piacere per me essere qui. E partiamo da questo nome d'arte, come mai Di Maggio, da dove viene? Di Maggio io l'ho scelto per quello che era un collegamento che vedevo proprio con il mese di maggio. Dico sempre, purtroppo, prima del cambiamento climatico degli ultimi anni, maggio era quel tipo di mese in cui tutto si riapriva improvvisamente, quindi si passava da quella che era la freddezza comunque invernale, la chiusura invernale, a un'esplosione e una riapertura generale. E io sono una persona che tende un po' a magari alla malinconia, e ho voluto vedere in Di Maggio la mia possibilità di portare una sensazione di bene durante tutti i mesi dell'anno. Infatti sono solito dire appunto Di Maggio si sta bene, perché nella speranza che c'era nel messaggio del mio nome, ho sempre immaginato che la mia musica potesse portare una sensazione di pace e armonia un po' in tutti i periodi. Ma è bellissimo questa spiegazione del nome d'arte, complimenti. Allora, A me non serve niente è descritto come un grido di ribellione e autoaffermazione. Ecco, appunto, parlando appunto della malinconia, anche degli amori, tu poi sei molto giovane, cosa racconti in questi brani? Allora, A me non serve niente nasce nel brano appunto che ha dato il nome all'EP come un'idea, cioè un forte sentimento di rabbia e di opposizione a quella che è la posizione che spesso i giovani hanno nella considerazione degli adulti di questi tempi, no? Quindi hanno sempre il faro puntato addosso, hanno sempre qualcosa di sbagliato, e nel momento in cui tu sei abituato a non essere ascoltato e ad essere solo additato per qualsiasi cosa, sviluppi quasi una sensazione di non necessità di nulla, appunto. Io ho pensato, non mi serve niente, perché se quello che voi mi potete offrire è solo un giudizio, allora preferisco fare tutto da me. E l'ho poi esteso a tutti i brani del disco e comunque dell'EP, perché in ogni esperienza di vita c'è questo insegnamento, in ogni amore comunque adolescenziale, quei primi amori così passionali che vanno male, c'è un insegnamento che alla fine ti dice il valore che devi dare a te stesso è tutto ciò che ti serve, è tutto ciò che ti può permettere di progredire in maniera sana in tutte le tue esperienze di vita. Ecco, tu hai scelto alcuni brani da inserire nell'EP, ma hai già pubblicato alcuni singoli. Come mai questi brani sono entrati a far parte dell'EP e invece gli altri, magari che hai pubblicato negli anni passati, no? Come mai questa scelta? Allora, Di Maggio è nato nel 2021, quindi un po' di tempo fa. Io avevo appena compiuto 18 anni, quindi ero ovviamente super giovane, super inesperto, non che adesso lo sia, però diciamo che adesso magari mi so destreggiare un po' meglio, però ho aspettato prima di voler presentare un vero e proprio lavoro discografico completo di concedermi delle sperimentazioni. I miei primi 7 singoli, a partire da Incoerenze fino a Meteore, che è stato l'ultimo prima delle Nonne e le Chiese, che ha annunciato le spie, hanno sempre qualcosa di diverso, perché c'è una sperimentazione, che sia nel suono, nell'arrangiamento, nella registrazione. Ho voluto fare dei piccoli esperimenti in modo tale da poter trovare una dimensione in cui sguazzare, tra virgolette, per bene. E fortunatamente, con l'aiuto di Wepro, che è stato il mio produttore per questo lavoro, e di Emanuele Dell'Abbate, che è il chitarrista della mia band, che appunto ha contribuito all'arrangiamento e poi alla registrazione di tutte le chitarre dell'EP, mi è stato concesso, perché ho trovato una dimensione musicale in cui davvero mi sento pienamente a mio agio. Ecco, e questa dimensione musicale qual è? Nel senso, hai detto che hai sperimentato molto, ma quali sono un po' le tue ispirazioni, i tuoi ascolti musicali che porti anche all'interno di A me non serve niente? Allora, io sono cresciuto con il cantautorato maschile e femminile, quindi l'influenza magari testuale è quella, però ho fatto sì che il sound del disco, dell'intero disco, potesse comunque essere vario, quindi c'è, per esempio, nella metà ho inserito Attacco di Panico, che ho arrangiato in una maniera completamente diversa rispetto al resto dei pezzi. L'EP poi si conclude con La Fiera dei Licantropi, che ha un'ambientazione molto più piccola, più pocket, molto più acustica, e ho voluto quindi far progredire l'ascoltatore nelle varie dimensioni che la mia musica può avere, quindi può avere sicuramente degli echi un po' più classici e bianchi, tra virgolette, quindi più acustici, più vuoti, tra virgolette, più delicati, quanto dei suoni molto più aggressivi, tra virgolette. Allora, tu sarai in tour per presentare A Me Non Serve Niente, questo tuo EP d'esordio, Roma, Milano, di nuovo Roma, Torino, Lecce, fino a fine dicembre. A Bologna non passi. Vuoi lanciare magari un appello tramite la radio a chi ci ascolta? Magari di... Allora, io sono un amante di Bologna, io lo dico sempre che se non vivessi in Lombardia per motivi di studio, vivrei felicemente la mia vita a Bologna, ma non ho ancora trovato il modo di esserci, quindi spero che magari qualcuno, anche tramite questa intervista, senta il disco e lo trovi interessante, appunto tale magari da permetterci di suonare. Sarebbe ovviamente un super piacere per noi, e ci farebbe davvero, davvero sognare. Ecco, quindi noi lanciamo un appello, ci auguriamo che possa essere così. Esatto. E grazie mille, ti chiedo se per salutarci, per insomma darci appuntamento, speriamo, a un eventuale live qui a Bologna, o comunque se cercate sui social di maggio ci sono varie date in giro per lo stivale, se vuoi scegliere una canzone dall'EP per salutarci e magari spiegarci anche perché la scegli. Allora, oggi ti direi di salutarvi con Microonde, che è la penultima traccia dell'EP, che appunto dà l'idea di un movimento di lontananza e parla un po' di quella che, come suggerisce il titolo, di quello che è il sapore di qualcosa di continuamente riscaldato e non piacevole poi ad un certo punto al gusto. E quindi vi voglio salutare così, perché sono ispirato questa mattina. Perfetto, allora Microonde di Di Maggio, grazie mille e insomma in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti voi, è stato un piacere.